spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Minuti dopo le 8 ancora buongiorno, e dunque spunti di vista oggi affronterà anche il tema del turismo e del viaggio, dal quale sembra, come settore intendo, arrivino dei segnali molto positivi per quel che riguarda i dati e per quel che riguarda quella che sembra un accenno di ripresa dal punto di vista della vitalità, perché ci sarebbero italiani in vacanza in aumento, certo usiamo il condizionale, ma questo dicono i dati, cioè un più 8,6% per essere precisi. E addirittura l'area prediletta per le ferie degli italiani sarebbe il Sud Italia. Anche questo è naturalmente una nota che fa ben sperare. Anche la crescita del giro d'affari complessivo, l'aumento della clientela straniera è stato registrato. Insomma, c'è un quadro che possiamo tracciare, tracceremo insieme ai nostri esperti, che fa pensare che nell'81% dei casi gli italiani, quasi 25 milioni di quelli che sono andati in vacanza, sono rimasti in Italia, mentre nel 19% dei casi, cioè più o meno 5 milioni, andranno all'estero. Ma soprattutto quelli che sono stati in Italia hanno puntato alle località marine. E noi questa mattina vi abbiamo chiesto: c'è un'impennata della Grecia notevole, cioè al di là dell'azienda che segnala, certo, noi abbiamo tanti turisti italiani, ci sono proprio dei dati ufficiali che vengono e dall'aeroporto d'Atene e da altre fonti che segnalano questa tendenza. La Grecia è stata presa d'assalto più del solito, molto più del solito, da italiani e tedeschi. Noi scherzando abbiamo chiesto: ma saranno sensi di colpa quelli dei tedeschi? È solidarietà quella degli italiani? E già qualcuno ci ha scritto al 349-238-6666: io sono stato in Grecia e vi saluto, ma non è stato per solidarietà, è perché il Nord Africa e l'Egitto sono crollati a causa degli attentati. E in effetti c'è stato anche questo, questa sicuramente sensibilità alle tensioni che si sono registrate dopo l'attentato del museo del Bardo in Tunisia. Già è cominciato il crollo di quelle mete e di conseguenza quello che era uno degli scopi degli attentatori, cioè minare l'economia anche di quel paese, possiamo dire è riuscito, hanno centrato, sono riusciti nello scopo, perché tantissimi, per paura di queste situazioni, hanno optato per una meta del o greca o italiana o addirittura della Croazia, anche più a nord. Ci sono quelli che sulla falsariga di questo messaggio ci dicono: la gente in Grecia ci va ma solo perché costa poco, non per solidarietà. E chissà, queste motivazioni naturalmente sono difficili da indagare. 349-238-6666, noi oggi vi chiederemo proprio questo e vi chiederemo anche cosa vi infastidisce quando andate in vacanza. Non parleremo di truffe o raggiri, ma proprio di atteggiamenti che un po' tutti i vacanzieri, italiani e no, hanno. C'è qualcosa che vi dà particolarmente ai nervi? 349-238-6666. Questo lo faremo tra pochissimo, perché noi ora vogliamo andare sì all'estero, ma grazie a chi da fuori ci osserva. E quindi andiamo a incontrare uno dei nostri corrispondenti. Visti da fuori. Ed è importantissima la testimonianza che fanno loro, i corrispondenti. In momenti di grave crisi per l'Italia, a volte sono proprio loro che osservano ciò che funziona, ciò che è bello, ciò che noi non vediamo e che ci danno un po' la carica. E ci sono situazioni e criticità che noi invece tendiamo a sottovalutare, quindi spesso l'occhio del corrispondente ci insegna non solo a guardarci forse con dissacrante autoironia, ma anche a sollevare, a mettere in luce alcuni aspetti che non avremmo altrimenti valorizzato. Stiamo cercando di collegarci con la nostra corrispondente che oggi sta dall'altra parte della linea, sperimentando quelli che sono i problemi a volte con la telefonia in Italia, forse ce l'abbiamo. Hello Josephine. Buongiorno. Josephine, ci siamo riusciti. Buongiorno, benvenuta. Josephine McKenna, freelance australiana, ha raccontato l'Italia in lungo e in largo, non solo all'Australia, ma grazie al patrimonio linguistico dell'inglese anche agli mezzi di informazione questo l'abbiamo detto, naturalmente statunitensi, volevo dire inglesi e sudafricani, di tutti quei paesi, insomma, del Commonwealth, dove che ti hanno incaricato di raccontare. Ora noi vorremmo sapere, nel 2015, insomma recentemente, cosa hai scritto? In questi giorni ho deciso di seguire le belle storie dell'Italia. Sono andata a Gangi, il piccolo paese in Sicilia dove vogliono regalare le case, un bellissimo posto nel cuore della Sicilia, e poi sono andata a Milano per raccontare come le grandi marche di moda hanno scelto di seguire il settore dell'ospitalità, alberghi, ristoranti, eccetera. Quindi ripercorriamo la tua prima tappa, Gangi, cioè tu sei andata in Sicilia, in questo paese dove vengono regalate le case. Cosa significa esattamente? Ma secondo me è una bella iniziativa, cioè è una bella iniziativa del sindaco, perché questo paese è stato spopolato dall'immigrazione, tante persone si sono trasferiti per lavoro in Germania, Svizzera, in Argentina, e adesso vogliono attirare gli italiani, anche gli stranieri, a questo paese nel centro della Sicilia. È un bellissimo posto. E regalare le case cosa significa? Che letteralmente puoi acquisire uno degli immobili di questo borgo straordinario in provincia di Palermo, tra l'altro. Ovviamente queste case sono rovinate, non c'è molto da vedere, dentro c'è molto da fare, per esempio sul piano terra era proprio le stalle degli animali nel passato, e quelli che prendono queste case devono ricostruire queste case e vogliono rifare questo paese in un modo molto bello, molto trasparente, devo dire. Ristrutturare in maniera da valorizzare quello che magari inizialmente può apparire oggi come un rudere, ma in realtà ha molte potenzialità. È una storia che è finita anche sul New York Times, perché proprio ha interessato, ha colpito tantissimo l'immaginazione, soprattutto degli stranieri, e tu ce lo testimoni. Il percorso d'acquisizione, non so esattamente come funziona d'acquisizione delle case, ma quello che è più interessante, al di là dei tecnicismi, è sapere da te chi ha risposto all'appello, cioè ha avuto successo questa iniziativa, questo appello lanciato dal sindaco? Sì. All'inizio no, ma dopo 2 anni, un po' di pubblicità, adesso c'è proprio un'ondata di interesse, 2000 richieste, e quando ero lì ho incontrato un gruppo di ungheresi che sono arrivati senza una parola dell'italiano, siciliano, anche inglese, non parlano niente, e hanno cominciato di ristrutturare una casa, e sono molto molto entusiasti. E uno mi ha detto: c'è un uomo, un anziano per strada che vuole baciarlo, abbracciarlo tutti i giorni per essere venuti. Quindi c'è anche la gratitudine della popolazione rimasta, perché pensate cosa voglia dire vedere partire il 50%, anche di più, della popolazione. Una volta questo Gangi, ma non tanti anni fa, toccava 16.000 abitanti, e poi se ne sono andati via via sempre di più, e di conseguenza è difficile anche mantenere in vita i servizi. E oggi come oggi, nel senso ufficiale, cioè ciò che dice l'anagrafe, ci sono 7.000 abitanti a Gangi, e poi c'è questa speranza grossa della rivitalizzazione turistica. Sì, e devo dire un'altra cosa, la campagna in questa zona è molto simile alla campagna in Australia, molto, molto secco, molto particolare, purtroppo troppo lontano dal mare per me, ma una zona molto molto molto bella. Purtroppo lontano dal mare, nel senso che tu non puoi vivere senza una costa vicino. Sì. Hai questa dipendenza e quindi... Sì, sì, ma tutti pensano che gli australiani siano proprio nel centro dell'Australia, ma 85% degli australiani vivono sulla costa. Senti, noi volevamo sapere, volevamo chiederlo anche a te, perché abbiamo chi ci ha sottoposto un quiz tra gli ascoltatori sulla bandiera australiana. Oh, è difficile spiegare. Aspetta, fammelo finire, fammelo dire, poi capisci cosa intendo chiederti, perché magari tu... No, non ci interessa la parte della Union Jack e del Commonwealth e del richiamo, ci interessa la parte delle stelle. Quelle sulla metà destra della bandiera. Sì. Cosa rappresentano? C'è la costellazione che si chiama Southern Cross, non so come si chiama. Croce del Sud in italiano. Sì, sì, sì. Quella costellazione che si può vedere solo nel sud. E poi c'è un'altra stella con i punti che rappresentano tutti gli stati, regioni in Australia. Ma adesso c'è un movimento di cambiare questa bandiera, perché non rappresenta la nuova Australia, che ovviamente ha tanti tanti gruppi etnici, non solo inglesi, non solo irlandesi. Abbiamo cambiato e c'è un movimento di cambiare questa bandiera. Sì, è un po' coloniale come bandiera, però è molto bella questa evocazione della costellazione della Croce del Sud che si vede nelle notti dell'emisfero australe. Sì, sì, molto molto bella. Chissà, si potrà mantenere anche nella nuova bandiera che avrete, chi lo sa. E ci stavi raccontando quello che tu scrivi, e dall'Italia hai messo in evidenza, oltre a seguire il Papa con una profondità che pochi corrispondenti hanno, hai messo in evidenza le cose belle, come le hai definite tu. Addirittura avrai una website di cose positive dall'Italia. Beh, speriamo sia molto densa la tua website. Sì, sì, adesso sto lavorando su un nuovo site per raccontare tutte le belle cose. Ho cominciato solo all'inizio a guardare le foto nel mio archivio. E le foto sono bellissime, dalla Puglia, dalla Sicilia, da Milano, da Venezia, tutti i posti bellissimi in Italia. È difficile, devo dire, decidere solo le foto che posso inserire su questo sito, ma secondo me c'è un bisogno di raccontare le belle, belle storie dell'Italia, e c'è anche una domanda per questa cosa. Una domanda nel senso di mercato, nel senso che all'estero vogliono sapere, perché quelli che in Italia ci tornano e hanno già visto nel primo viaggio quelle che sono le mete tipiche, insomma le città d'arte più gettonate dalle guide, da Roma a Venezia a Napoli, vogliono sapere anche che altro andare a vedere, che altro andare a scoprire. Questo ce lo segnalate sempre voi coralmente, corrispondenti. Ci sarà una cosa, Josephine, una cosa, devi dircela, che ti infastidisce dell'Italia, che ancora oggi fai fatica ad accettare, della mentalità italiana? Vorrei evitare andare alla posta quando c'è una fila, ma come tutti. Ma la sporcizia è un grande problema, ovviamente, a Roma. Mi dà fastidio vedere le strade bellissime rovinate, dell'immondizia, queste cose sono ridicoli. Per me la cosa che dobbiamo svegliarci per cambiare questa cosa al più presto. Questa è la cosa che ancora ti dà ai nervi quando sei in Italia, ormai ci vivi da tanti anni, perché non riesci a capire, dice, è ridicola, perché non riesci a capire come non sia risolubile in questo senso. Sì. E secondo me non è la responsabilità del comune, del sindaco, è la responsabilità, la mentalità di tutti, di non lasciare la roba per strada. Dobbiamo creare e proteggere, tutelare questo bellissimo paese. Grazie, grazie per le tue parole, ti facciamo un regalo. Grazie mille. like a lane in a fighter come on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? E quindi riferimento qui all'Australia, esplicito anche nel titolo, loro sono i Men at Work, l'ha scelto la nostra corrispondente australiana, è una canzone in realtà del 1981, la ricorderanno quelli che hanno qualche annetto in più tra i nostri ascoltatori, quelli che appartengono alla mia generazione, quindi Business as Usual era il loro album di debutto dei Men at Work, e c'era questa canzone tra l'altro molto catchy, molto facile da ricordare, e anche per chi non ne conosceva il significato per gli australiani, comunque tutti la trovavano molto bella da suonare, da cantare. Invece ci ha raccontato Josephine McKenna, in Australia era considerata proprio la canzone simbolo di quel paese, proprio una canzone in cui moltissimi dei suoi connazionali si riconoscono. Noi torniamo tra pochissimo per affrontare un altro tema di spunti di vista, e è stata questa l'estate migliore dal punto di vista del turismo dell'ultimo decennio, e soprattutto le mete preferite dei turisti sono state quelle balneari, le spiagge. Perché? Perché quest'anno si è puntato all'Italia così tanto, un po' ce lo racconterete voi e un po' ce lo spiegheranno i nostri esperti con dati alla mano. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E abbiamo sentito come già dal primo SMS qualcuno ci ha detto, io in Egitto dove sarei andato se avessi potuto scegliere, non mi fidavo ad andare. Tunisia stessa cosa, e quindi c'è stato un calo di queste mete. A risentire di questa paura diffusa è stato anche il Marocco, che ha risentito una diminuzione delle prenotazioni del 74,8%. E addirittura questo effetto ISIS, come l'hanno definito gli operatori del turismo, si è allargato anche ad altre mete di questo importante potenziale turistico, cioè il Kenya, la Turchia e Israele. Sono stati tutti dei deterrenti di cui sembra aver beneficiato, e alla grande, la Grecia e anche l'Italia, perché le mete italiane quest'anno hanno fatto il pieno. Facciamo la fotografia oggi, che è il 10 agosto, di quelle che sono state le vostre scelte dal punto di vista del turismo e perché, e poi cerchiamo di prendere in esame, così anche per scherzare un po' forse, ma per capire cosa turba e come è cambiato il grado di civiltà di chi viaggia, cosa ti infastidisce di più durante un viaggio. C'è chi tra gli ascoltatori che hanno scritto un SMS ci segnala le persone che stanno vicino al nastro dei bagagli, cioè quando devi ritirare la valigia una volta che sei atterrato, a volte non riesci a recuperare il tuo bagaglio perché ci sono delle persone che non ti fanno avvicinare. Questa in effetti è uno dei quei comportamenti collettivi che si potrebbe correggere, in cui si dimostra disattenzione per quelli che sono dietro. Agli italiani in particolare poi non piace dover prendere l'autobus per raggiungere l'aereo. Anche questo è una vostra segnalazione. 349-238-6666 per parlare di turismo e per capire quali sono le motivazioni, i fattori che hanno reso questa un'estate unica. Innanzitutto, buongiorno ai nostri ospiti. Buongiorno ad Alessandro Nucara, benvenuto. Buongiorno a tutti. Alessandro Nucara è direttore generale di Federalberghi. Voi avete segnalato nella vostra ricerca è stata una tendenza particolarmente positiva. Il giro d'affari quant'è stato, dovendo dare la prima cifra che la rappresenta? Abbiamo un giro d'affari di 18,3 miliardi di euro per quest'estate, siamo più 7% rispetto all'anno scorso, quindi un dato sicuramente positivo. Non tutti i dati sono brillanti, ma ci sono dei segnali che ci fanno ben vedere a quest'estate e guardare con molta fiducia al futuro. Quanto è stata la durata media della vacanza degli italiani quest'anno? Siamo intorno alle 8 notti, e questo è un primo dato che non è in linea con come dire, i festeggiamenti generali che sentiamo fare, siamo un giorno in meno rispetto all'anno scorso. In generale quel che accade è che si spende un po' di meno, la vacanza dura un po' di meno, ma molti italiani in più hanno fatto vacanza. Non siamo ancora ai livelli di qualche anno fa, quindi andiamo meglio dell'anno scorso, andiamo meglio di 2 anni fa, ma per darvi una misura, quest'anno noi arriveremo ad avere circa 30 milioni di italiani in vacanza, erano 33 milioni nel 2011, quindi stiamo migliorando, siamo più 7% rispetto all'anno scorso, ma ancora l'effetto della crisi si sente. E dove sono andati questi italiani che si sono mossi per andare in vacanza? L'estate tradizionalmente è meta del mare soprattutto e anche della montagna, città d'arte, lago, ma il mare quest'anno come sempre d'estate la fa da padrone e vediamo con piacere un ritorno prepotente del sud Italia. Sicilia, Sardegna, Puglia, un po' di meno la Calabria, ma anche la Calabria danno segnali di netta ripresa, in alcuni casi segnali di ripresa a due cifre. In questo momento in cui si parla del sud d'Italia come della condizione economica meno favorita e soprattutto guardando ai tanti giovani che non hanno lavoro, pensare che c'è un settore che dà lavoro in Italia a 2 milioni di persone e il 50% sono giovani, ecco, questo è un bel segnale di fiducia e di speranza per i giovani del sud. Perché il turismo, secondo lei, viene sempre preso come un fattore, come dire, stagionale e non viene mai trattato come un segmento economico, una leva di crescita potenziale del paese con la serietà e con la visione che meriterebbe, visto che l'Italia poi all'estero è conosciuta soprattutto per questo? Io la ragione gliela so dire, le posso confermare che però accade così. Noi diciamo che bisognerebbe avere la forza di spostare il turismo dalle pagine della cronaca, dove è bene che ci sia, anche perché racconta la vita e lo svago degli italiani, alle pagine dell'economia, perché è lì che comprendiamo che si tratta di una quota importante del prodotto interno lordo, come dicevo prima, 2 milioni di persone che ci lavorano, quindi ricchezza per le famiglie, per il paese e prospettiva di crescita interessante. Negli ultimi anni, nonostante la crisi, mentre altri settori dal punto di vista occupazionale frenavano, in alcuni casi arretravano, il turismo in molti casi ha tenuto. E questo è un motivo in più per guardarlo con attenzione. Ma non basta dire che è il petrolio d'Italia, questo bisogna chiarirsi. Sì, sì, ci riempiamo la bocca a volte di retorica e poi bisognerebbe pensare e realizzare interventi strutturali. Comunque è proprio una notizia di oggi che dopo le contrazioni, che conferma quello che voi dite osservando gli alberghi, ma dopo le contrazioni registrate negli anni scorsi, finalmente la ricettività e la somministrazione provano a ripartire. Che significa? Questo lo dichiara Fiepe, cioè l'associazione di categoria dei pubblici esercizi, che anche ristoranti e bar segnalano la stessa tendenza sui consumi che avete visto, cioè in crescita, che avete visto voi guardando gli alberghi. Giulia Remita, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno a tutti. Pronto, ciao. Lei invece gli alberghi e le prenotazioni, le tendenze degli italiani le nota, le vede da un altro online. Punto di vista, cioè Giulia Remita infatti è capo del marketing di Trivago in Italia. Allora, conferma quello che ci ha raccontato Federalberghi, c'è una tendenza in crescita, hanno trascorso una vacanza più breve fuori casa, 30 milioni di italiani, però insomma... più italiani sono andati in vacanza? C'è un recupero? Anche voi lo vedete o no? Sì, sì, sì, sì, confermo. Stavo ascoltando con molto interesse, anche perché noi si lavora ovviamente con i dati che vengono prodotti insomma, ogni giorno e osservati dal nostro centro statistico. Abbiamo notato nelle vacanze da luglio e agosto un aumento della spesa del più 22%. Su vacanze di 7 notti, quindi per intenderci la spesa media per una camera doppia notte, insomma quello che noi rileviamo quest'anno è di 798 euro per 7 giorni, quindi più o meno 114 euro al giorno, mentre lo scorso anno era stata di 653 euro. Quindi quando parla di camera, Giulia, scusi, quando lei doppia. Parla di camera doppia, sì. Quindi ripeta il dato, a giornata più o meno la media hanno speso quanto? 114? Allora, 114, esatto, mentre lo scorso anno era di 93 euro al giorno, quindi c'è stato un bel balzo, quindi più 22% non è per niente male. La finestra temporale negli anni si è ridotta chiaramente, sì. Abbiamo vacanze molto brevi a luglio, brevissime a giugno, quasi escursioni proprio da weekend e settembre, però diciamo che siamo stabili, noi abbiamo un dato leggermente più basso rispetto agli 8 giorni, considerato che comunque per esempio Trivago, il portale per cui lavoro, si tratta di prenotazioni molto spesso on the go, nel senso che il viaggiatore parte, poi decide dove andare a seconda di quello che è il suo percorso, no? Quindi può anche prenotare magari last minute, sicuramente certo. Non è consigliato in questa settimana. Sì, non fatelo, però, lei dice una settimana centrale d'agosto. No, assolutamente. A meno che però, vogliate girare le periferie di Milano, per esempio, no? Uno fa una vacanza esatto, alternativa, come dire, nell'archeologia industriale. Si può. Ma Giulia Remita, io le devo chiedere una cosa, voi avete anche dei feedback, no? Cioè nel senso qualcuno mette dei commenti, siccome ci stanno segnalando che l'abitudine peggiore degli italiani è l'assoluta mancanza di rispetto dell'ambiente, cicche, avanzi di cibo, parti in plastica in mare, sulle spiagge, sembra succeda un po' di tutto, anche a voi risulta? Queste sarebbero le recensioni degli albergatori, non ce le abbiamo. Noi abbiamo una media ponderata tra tutti i vari portali che compariamo, quindi si tratta praticamente di una media statistica. In generale c'è un grosso sovraffollamento, considerate che questa settimana si accalcano un quarto di tutti i viaggiatori estivi. Vuol dire che un quarto degli italiani che viaggiano, abbiamo parlato più di 30 milioni, vanno in vacanza in questa settimana. Quindi ovviamente vanno a caricare città che di villeggiatura, in particolare località di mare, che magari non sono preparate da quel punto di vista. E quindi nella confusione sicuramente c'è chi se ne approfitta. Però no, le recensioni non abbiamo niente, proprio perché le confrontiamo, non abbiamo recensioni nostre proprie, quindi non saprei dire su questo. Alessandro Nucara, come le dicevo, abbiamo perso l'ultima ascoltatrice, l'ultima ospite, ma adesso la recuperiamo perché ha cominciato a dare problemi la linea telefonica. Alessandro Nucara, come le dicevo, un po' considerata la Cenerentola dell'economia, questo settore del turismo, perché pensi che perfino gli ascoltatori ci stanno scrivendo che non è una speranza per il futuro il fatto che si possa lavorare nel settore del turismo, non è assolutamente una possibilità che molti ritengono, come dire, augurabile, auspicabile per quella che è l'economia italiana. Quindi ancora una volta c'è questa sorta di pregiudizio che in qualche modo macchia chi lavora nel turismo. Noi ne parleremo anche con Nucara, prima però vogliamo capire un altro dato importante che ci sta arrivando da quelle che sono state quelle abitudini che sono state registrate anche in questa estate italiana, cioè un'impennata della Grecia. L'aeroporto d'Atene in giugno ha registrato una crescita del 21,4% nel traffico passeggeri. Addirittura a luglio, solo a luglio, è aumentato del 19%. E allora abbiamo detto, ma cosa sta succedendo per esempio sull'isola di Samos? Buongiorno a Luca Raineri, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. E lei è un italiano lì, però non è un turista, cosa fa sull'isola di Samos? Io ho un ristorante, gestisco un ristorante da 12 anni qua nell'isola. E c'era all'inizio della crisi forse poca gente e adesso c'è questa impennata, cioè lei conferma questa tendenza che è stata segnalata? Sì, diciamo di sì, diciamo che la grossa difficoltà l'abbiamo avuta a luglio, nel periodo in cui c'era questo stallo tra l'Europa e la Grecia, che insomma dovevano trovare un accordo, e qui il lavoro era crollato più della metà rispetto all'anno scorso. Poi una volta che hanno trovato l'accordo la cosa ha ripreso molto bene, adesso siamo su livelli ottimali rispetto all'anno scorso, siamo leggermente superiori, non come anni precedenti, parliamo non so, il 2008-2009. La problematica principale che c'era stata nel periodo appunto di transazione, mentre di mediazione diciamo, che dicevano insomma che i turisti non avevano problemi. In realtà nel mio paesino che è Coccari, dove ci sono dei distributori automatici, la gente, è vero che il turista poteva prelevare più soldi rispetto al greco, però i distributori erano vuoti, col fatto che il greco poteva prelevare non so, i 60, i 70 euro, in poco tempo si sono prosciugati e le banche erano chiuse perché hanno fatto una decina di giorni di chiusura e quindi non potevano rimettere contante insomma in queste macchine, e anche il turista era in difficoltà nel reperire la moneta. E in più non venivano accettate le carte di credito, non accettavamo le carte di credito. Ah, nemmeno lei? Neanche io, perché i conti correnti in quel momento erano bloccati, non sapevamo se questi soldi che c'erano in banca restavano noi o se li prendevano loro in caso di default insomma della Grecia. E questa è stata la principale, diciamo, il periodo un po' più brutto insomma di quest'anno. Poi adesso invece sembra che le cose stiano andando un po' meglio. Non si capisce bene come sarà la situazione poi in futuro. Adesso siamo in alta stagione, c'è gente, c'è lavoro per tutti, poi si vedrà. Sembra che questi greci non sono tanto convinti di questo patto che hanno fatto, quindi bisognerà vedere insomma. Si vive un po' alla giornata e sì, anche per voi è così. Ma lei registra un'impennata di presenze di italiani e tedeschi, come ci dicono le statistiche? Beh, Samos è un'isola che forse non è molto conosciuta per l'italiano, è un po' di più per il tedesco. Italiani comunque se ne vedono molti di più rispetto agli altri anni, considerando che ci sono due grosse agenzie che portano, che hanno insomma preso un po' quello che prima era diviso con più gruppi, diciamo con più agenzie, adesso queste due hanno fatto un po', hanno ritirato le strutture più grosse e quindi gli italiani arrivano molti di più. Arrivano luglio e soprattutto agosto. Ieri sera noi avevamo il 25% dei tavoli erano italiani. Quindi Luca, cosa le dicono questi suoi connazionali? Cioè vengono semplicemente perché l'agenzia ha fatto un'ottima promozione, perché i costi sono bassi, come ci dicono anche i nostri ascoltatori all'SMS, o vengono anche perché c'è una sorta di effetto solidarietà, effetto simpatia? Ma la Grecia piace, uno sceglie di venire in Grecia perché le piace. Poi le agenzie hanno suggerito quest'isola che non è conosciuta, l'isola di Pitagora, insomma, dove è nato Pitagora, e quando arrivano qua restano un po' sbalorditi perché dicono: ma dove sono finito? Poi alla fine in che senso dove sono finito? Non capisco. Sì, non è un'isola per dire come Mykonos, Santorini, Rodi, che sono isole che hanno un grande sviluppo turistico con delle grosse strutture, parliamo di alberghi eccetera eccetera, qui non c'è questo sviluppo di grandissimi hotel, alberghi, ce ne sono pochi in tutta l'isola. E quindi si va ancora a tipo un residence, dove si trovano questi studi, appartamenti, la stanza, e quindi questi vengono inseriti in queste strutture qua e magari restano un po', diciamo, non è quello che si aspettavano, diciamo, esatto, prima esatto. Di partire poi vengono affascinati invece. Poi vengono affascinati a tal punto che ci ritornano. Facendo la vacanza per loro conto, insomma, diciamo, senza andare tramite le agenzie, ecco. Ma il vostro menù è italiano, greco, misto, cos'è? No, il nostro menù è 100% italiano e cerchiamo di fare bene la cucina italiana, da pasta fresca, la pizza, insomma, pesce, carne, che troviamo qua, molti prodotti li portiamo dall'Italia, affettati, mozzarella, vini, e quindi cerchiamo di fare bene il ristorante italiano, come se fossimo in Italia, insomma, in poche parole. E lei perché si è trasferito sull'isola di Samos, Luca? A me mi è piaciuto il posto. Io e la mia compagna siamo scesi in vacanza e nel parlare sarebbe bello di qua e di là, e alla fine così per caso abbiamo trovato questo ristorante che era in vendita e è un ristorante vi ha cambiato poi il corso dell'esistenza, una vacanza, a volte succede così. Grazie per questa voce che ci è arrivata dall'isola di Samos. La Grecia desta molta simpatia in termini così di destinazione turistica e molti quest'anno sono andati lì, lo confermano le cifre. Io non sopporto, ci dicono gli ascoltatori, fumare andare in spiaggia dovrebbe essere vietato. Vi stiamo chiedendo un po' quello che vi infastidisce quando andate in giro, visto che 30,4 milioni di italiani quest'anno si sono spostati, a volte oltre, e si spera naturalmente, visto che il viaggio poi continua nei ricordi, si dice, no? Comincia nell'immaginazione, continua nei ricordi, abbiate in prevalenza ricordi positivi. Ma ci sono anche queste segnalazioni sul malcostume e le stiamo raccogliendo un po'. Fumare in spiaggia, sporcare le spiagge soprattutto, e c'è anche chi dice preferisco non andare dove ci sono italiani, questo è Giorgio, perché non voglio essere considerato come loro, mi vergogno da quanto si comportano male, ma non precisa in che cosa. I messaggi SMS possono essere mandati al 349 238 6666, e le vostre telefonate all'800 24 00 24. Il traffico ora. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Eh sì, non ci va proprio bene niente. Siete in vacanza, siamo in vacanza, dice qualcuno, almeno godiamocela. Però le persone che stanno vicino al nastro dei bagagli e impediscono agli altri di recuperare la valigia danno fastidio. E danno fastidio anche quelli che fumano in spiaggia. I bambini in aereo, questo è un segnale molto, un po' di intolleranza, Alessandro. I bambini in aereo chiaramente in qualche modo fanno rumore, a volte piangono, ma hanno il diritto di viaggiare anche i bimbi. E la Grecia è molto bella, ci segnala Daniela da Viareggio, e sogno di tornarci. La Grecia costa meno, questo sarebbe secondo uno degli ascoltatori il motivo per cui raccoglie tanti consensi come destinazioni. Le strutture sono più belle e la gente è più onesta e ti tratta meglio. C'è anche questa segnalazione sull'accoglienza e su come vengono accolti i viaggiatori. Giulia Eremita ha visto che in Grecia ci vanno anche quelli di Viareggio. Secondo le vostre rilevazioni, e quali regioni preferiscono mete italiane o altre destinazioni? Perché voi avete raccolto anche questo sottosegmento, diciamo così, dell'indagine sulla mobilità degli italiani, cioè chi parte dal Veneto dove va, chi parte dalla Valle d'Aosta o dalla Liguria in generale dove va. Sì, esatto, abbiamo le prime 10 posizioni o 5, ma minimo massimo 10 per ogni destinazione. Molto interessante. Allora, gioca sicuramente il fattore prossimità, quindi fate conto che verso la parte centro-centro-nord, Rimini e Riccione sono sempre in top, prima Rimini e poi Riccione. Ovviamente i veneti vanno più a Lido di Jesolo che a Rimini, e chiaramente se andiamo a vedere i romagnoli prediligono tutte mete dell'Emilia-Romagna. Però ci sono anche delle differenze. Prima stava parlando di Toscana. Allora, Toscana vedo che per esempio in quarta posizione, dopo Rimini, Elba, Riccione, c'è proprio Santorini, quindi comunque... Cioè i toscani vanno in Grecia, se non vanno sul mare toscano, sì, vanno in Grecia, a Santorini. Esatto, se non vanno nel mare in realtà poi della costa adriatica, perché Rimini in prima posizione, poi Elba, poi Riccione, poi Santorini. Addirittura tre posizioni più giù abbiamo la Spagna con Ibiza. Quindi sono tra quelle regioni che viaggiano di più verso l'estero, però comunque si tengono prevalentemente all'80% nella top 10 con mete italiane. Diciamo che Rimini e Riccione abbiamo detto che spopolano soprattutto per il turismo lombardo. Per esempio i lombardi, tra le curiosità, all'estero, alla Grecia preferiscono invece la Spagna, e tra tutti sono quelli che vanno di più a Ibiza. Diciamo che ci sono molte mete festaiole nella top 10 della Lombardia, tra cui anche Milano Marittima o altre destinazioni, ed è l'unica regione a nord che tradisce, diciamo, il mare del nord anche per il sud, e va a Gallipoli in Puglia, nel Salento. Quindi sono, diciamo, gli unici. Quindi la Puglia è la più attrattiva, rimane comunque per tutti la meta più attrattiva. Io parlo, sì, naturalmente, diciamo in Italia. Allora, nei rank, parlando appunto di che cosa è cambiato, sì, rispetto allo scorso anno, Salento ma anche Gargano salgono nelle prime top 5 posizioni. Per esempio, le più prenotate di quest'anno sono Rimini, subito dopo Gallipoli, poi abbiamo Riccione, poi abbiamo Vieste, quindi Gargano, e poi Porto Cesario, Salento. Quindi è salita con tre posizioni su cinque nella top 5. E poi è salita la Sardegna, in nona e in decima abbiamo Alghero, Villasimius, addirittura in undicesima San Teodoro. Quindi la crisi del Nord Africa ha portato più turismo balneare, domestico, ma anche estero. Abbiamo molto più estero quest'estate, sì, nelle sì. nostre coste, nelle nostre isole. Però stiamo prendendo in esame un po' quello che fanno gli italiani. Grazie, grazie a Giulia Eremita. Alessandro Nucara, stavamo parlando prima del fatto che il turismo non dovrebbe essere nelle pagine di cronaca, ma nelle pagine dell'economia. E perché è un settore che cresce, cresce velocemente, non solo alberghi, anche ristorazione, l'abbiamo visto, eppure non viene visto come un'attività degna di, da alcuni nostri ascoltatori dicono, ma non può l'Italia puntare su quel settore, che futuro darà ai suoi giovani? Lei cosa risponde? Io dico che dobbiamo puntare di più, e ripeto, fuori alla retorica, basta dire che il turismo è il petrolio dell'Italia, non serve a nulla, bisogna fare. Provo a dare alcuni esempi. Vogliamo vendere turismo all'estero? Dobbiamo farlo perché porta ricchezza. Noi abbiamo un ufficio vendite dell'Italia, si chiama ENIT, è l'Agenzia Nazionale del Turismo. Nell'anno dell'Expo e del Giubileo abbiamo un ENIT azzoppato, dimezzato, è stato per lungo tempo senza vertici. Fortunatamente a settembre si insedieranno il nuovo presidente e il nuovo consiglio di amministrazione. Siamo stati addirittura capaci, sei mesi prima dell'Expo, di richiamare in Italia tutti i nostri delegati all'estero. Quindi abbiamo detto alla nostra rete vendite: spegnete la luce, non ce n'è bisogno. Questi sono atti di suicidio che noi andiamo denunciando da tempo, e se il paese continua a lavorare in questo modo, per quanta buona volontà ci mettano gli operatori, è evidente che non possono fare tutto da soli. Ma perché secondo lei gli italiani stentano a riconoscere questo elemento come un elemento degno, diciamo così, d'attenzione dal punto di vista economico? C'è una cultura dell'industria, intesa nel senso sbagliato, perché nessuno ha nulla contro l'industria, in cui si è mitizzato per anni il ruolo dell'operaio e si è svilito il ruolo del cameriere, se vogliamo mettere a confronto le due figure tipiche. Qualcuno un tempo disse: ma che vogliamo, un popolo di camerieri? Non comprendendo che il turismo è un settore che può portare grandissima ricchezza al paese, e dimenticando che questo è un paese, per caratteristiche storiche, ambientali, culturali, climatiche, è in grado di avere delle ottime carte da giocare per intercettare i flussi mondiali che sono sempre crescenti. Lo so, solo un numero: noi, e per noi intendo il mondo, poco più di una, calcolato la soglia del miliardo di arrivi internazionali, cioè un miliardo di persone che ogni anno vanno fuori dal proprio paese per vacanza, per lavoro. L'Organizzazione Mondiale del Turismo stima che nel corso dei prossimi 20 anni diventeranno 2 miliardi, quindi raddoppieranno. Quindi una mobilità e delle opportunità assolutamente da intercettare. Il mercato cresce, ci sono tanti competitor, molti Chiaro. Corrono più veloci di noi, ma c'è spazio per tutti, però bisogna dare. E l'Italia deve puntare questo, chiaramente, su questo settore. Direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, grazie naturalmente per il suo intervento. Vogliamo chiudere con una nota importante che viene da un ascoltatore, Emanuele da Milano. Buongiorno, benvenuto Emanuele, velocissimo ci parli. Buongiorno. Della sua testimonianza. Io quest'anno non faccio vacanze praticamente ad agosto, è il primo anno in cui per motivi lavorativi mi trovo a Milano e sì. quindi eviterò di fare le ferie e sto vivendo la città deserta da venerdì, praticamente, veramente deserta, che rispetto all'anno scorso secondo me è un ottimo aspetto positivo. La Milano deserta è fantastica. Forse sarebbe meglio farle in un altro periodo le ferie, mi sto quasi convincendo. E la trova struggente, la trova, cosa le piace? Insomma, mancano tutti i servizi di base praticamente, sì. però ha un suo perché, nel senso che si riscopre un'altra città, non c'è caos. Si apprezza l'architettura, si riscopre una certa solidarietà. Grazie a Emanuele con questa prospettiva particolare delle vacanze in città. Noi torniamo tra poco perché diamo la linea al GR per affrontare il secondo tema della mattinata, cioè il cervello multilingue. Lo è multilingue o siamo monolingui per natura? E cosa funziona nell'apprendimento di un altro idioma? Ne parleremo dalle 9. Naturalmente, ora gli aggiornamenti e le news. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. buongiorno ancora una volta da Irene Zerbini. Nel caso vi siate messi in auto da poco, abbiate acceso la radio, qualche giorno fa abbiamo parlato di insegnanti. Ebbene, si cercava di capire cosa rende un insegnante una figura importante nel corso della vita, una figura che si ricorda anni dopo, e abbiamo dato la parola a voi e a noi che siamo stati sui banchi di scuola, ma in realtà non abbiamo insegnato mai, e ci ha raggiunto un insegnante in questo weekend e ha voluto portarci una testimonianza che condividiamo con voi. Qualche giorno fa ci ha raccontato, con quattro amiche sono state a cena presso il ristorante Puntini Puntini, è venuto a prendere l'ordinazione un ragazzo che, vedendomi, mi ha immediatamente riconosciuta a distanza di 12 anni. Si ricordava ancora, dice questa professoressa, il mio nome e il mio cognome, perché io ero la sua ex insegnante della classe quinta della scuola primaria. Il ragazzo, titolare del ristorante, ha espresso grande riconoscenza nei confronti della sottoscritta, attribuendomi il merito di avergli ridato fiducia nella scuola e di aver contribuito in modo determinante alla scelta e alla riuscita del suo percorso scolastico, che si era concluso con una laurea in lingue e comunicazione in indirizzo turistico. Poi è proseguita la serata in maniera piacevole, la cena è stata ottima, ci fa piacere. Al momento di pagare ho dovuto constatare con mio grande stupore che lui mi aveva offerto il banchetto. Vi chiederete, ma perché racconto questo episodio della mia vita personale? Lo riporto perché con mia grande gioia noto come i valori come la gentilezza, la galanteria, la gratitudine e la stima sono ancora presenti anche in quei giovani che troppo spesso vengono accusati di superficialità e di maleducazione. Bello, ce l'ha mandato sulla pagina Facebook di Spunti di Vista, quindi potete contattarci e seguirci anche da lì. E intanto stanno arrivando tantissimi sms al 349-238-6666 che ci segnalano cosa dà fastidio quando si viaggia. Ebbene, attenzione i bambini, un'altra volta, i bambini hanno diritto di viaggiare in aereo, in treno, però devono essere ben educati e non devono ammorbare gli altri viaggiatori con urla e capricci, ci segnala Gianfranco. Dovrebbe valere anche per gli adulti, però anche soprattutto per gli adulti. Gli italiani quando viaggiano all'estero sono troppo strafottenti e sono molto molesti, siamo troppo cacciaroni e questo dà almeno fastidio. Poi altri dicono che il gioco dei racchettoni sulla spiaggia, chi striscia le ciabatte sul bagnasciuga, insomma sembra che abbiamo veramente una soglia di tolleranza molto bassa quando siamo in vacanza, bisognerebbe essere rilassati. E c'è anche chi segnala il fastidio dovuto al divieto di visita ai cani. Questo è il mio fedele accompagnatore, è un cane e in alcuni posti non può viaggiare con me, ce lo dice un ascoltatore che non si firma ma che scrive da Mantova. E chiudiamo anche con una segnalazione positiva che invece riguarda dei laghi. I laghi non li abbiamo presi in considerazione come destinazione. Sulle spiagge del lago di Garda e quelle del Sebino, visto che l'incuria e la sporcizia è stata segnalata come una delle note più deplorevoli dell'italiano in vacanza, cosa hanno deciso di fare? I rifiuti diventano buoni da spendere in negozi e generi alimentari, cioè per combattere praticamente l'inciviltà di chi abbandona le lattine di alluminio, le bottiglie di plastica. Il comune di Manerba ha ideato una raccolta dell'immondizia che si trasforma in buoni sconto al ristorante e nei supermercati. Ci sono delle macchinette apposite che sono lasciate sulla spiaggia e il principio è molto semplice: tu inserisci la lattina e la bottiglia in questi contenitori che le schiacciano e le rendono già pronte per il riciclo, e il comune così ci guadagna due volte perché risparmia per le spese di pulizia, in più raccoglierà, si stima a fine anno, circa 7 tonnellate di questi rifiuti, insegnando anche contemporaneamente l'educazione. Tutto ciò ci fa molto piacere. Abbiamo chiuso con una nota positiva la tematica sui viaggi, affrontiamo ora il problema del bilinguismo, del multilinguismo. perché è una cosa naturale, ancora molti si chiedono, o è una forzatura, è uno sforzo che si fa fare al cervello? Sono domande che ormai hanno ottenuto risposte molto esaurienti e molto abbondanti, anche perché si scrivono tonnellate di articoli su questo tema. E io dunque saluto e ringrazio per il suo tempo Enrica Piccardo, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Enrica Piccardo è una specialista non solo di multilinguismo ma di polilinguismo, e tra poco spiegheremo anche che cos'è. E con lei c'è anche un cultore, non solo linguista ma cultore proprio della conservazione di lingue in via di estinzione, il professor Sergio Gilardino. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Quindi buongiorno a entrambi. Comincerei con Enrica Piccardo per girarti proprio la domanda sul cervello. È una cosa naturale essere monolingui o in realtà il nostro cervello è strutturato per parlare più di un idioma? No, senz'altro il nostro cervello è strutturato per parlare più di una lingua. Questa è la situazione normale che si è sempre avuta anche storicamente. E diciamo che la costruzione del monolinguismo è naturale, qualcosa che storicamente si è creato con l'avvento degli stati-nazione e si è visto come la cosa naturale che ci fosse uno Stato con una lingua, un cittadino con una lingua. In realtà noi siamo costruiti per avere un repertorio linguistico. Dentro il nostro cervello le lingue non stanno in contenitori separati, ma interagiscono, anche se non ne siamo sempre coscienti, evidentemente. E quindi il bilinguismo e il multilinguismo, o meglio ancora il plurilinguismo, sono effettivamente qualcosa di normale. Non so se vuoi che spieghi la differenza tra bilinguismo e plurilinguismo. Beh, visto che l'hai nominato, tra poco ci andremo naturalmente. Enrica Piccardo è una docente, tra l'altro, che biograficamente colleziona all'interno proprio della sua esperienza di vita diversi contatti con il multilinguismo e il plurilinguismo, perché in questo momento dove insegna Enrica, dove si sposterà, che esperienza ha avuto, i figli quante lingue parlano? È veramente una sorta di Babilonia in senso benevolo anche la sua vita, dica. In questo momento io sono professore associato all'Università di Toronto, all'Ontario Institute for Studies in Education, però in questo momento mi trovo in Italia, nella città dove sono nata, Savona, per un po' di vacanze, e poi questo inverno mi sposterò per un anno in Francia, a Grenoble, nell'università dove ero precedentemente, per poi tornare in Canada. Sì, i miei figli anche loro mi hanno seguito nei vari percorsi e adesso sono trilingui con interessi verso altre lingue come il tedesco, trilingui italiano, francese, inglese, sì, per ragioni di vita, esattamente di repertorio linguistico, di itinerario linguistico, culturale, di vita che hanno percorso per i nostri spostamenti. Ma le lingue dove e come, con quali strumenti le hanno apprese bene? Corsi di laurea, film, amici, cos'è che ha funzionato di più sulla loro formazione linguistica? Beh, diciamo che un po' tutto ha contribuito, cioè ovviamente hanno avuto un apprendimento anche formale a scuola, però quello che ha fatto molto è stato il contatto diretto, quotidiano, con i media, con gli amici, con la necessità di vivere una lingua effettivamente. Questo ha contribuito moltissimo alla loro così formazione linguistica in senso lato. E dalla vostra esperienza di ascoltatori, cos'è che funziona di più? Guardare film in lingua, fare conversazioni con un insegnante madrelingua, avere delle motivazioni per esempio utilitarie di lavoro? Cosa funziona di più per l'apprendimento delle lingue? Raccontateci anche di voi al 349, questo è il numero SMS, 238-6666, oppure potete farlo telefonando all'800-2400-24. Dottoressa Piccardo, tornando alla differenza tra multilinguismo e polilinguismo, qual è? Perché si parla sempre di più di questa sottile differenza, cioè cos'è il plurilinguismo? Si parla di plurilinguismo, non di polilinguismo. polilinguismo. Ieri ho sentito Umberto Eco parlare di polilinguismo. Sì, però dal punto di vista dell'apprendimento, la distinzione maggiore che si fa è quella tra multilinguismo, che è a livello sociale, cioè mettere insieme diverse comunità che parlano diverse lingue, ma non necessariamente queste comunità saranno in grande interazione fra loro, e invece il plurilinguismo è un concetto che vede l'insieme delle lingue che un individuo conosce, ma non necessariamente conosce tutte ad un livello eccezionale, ma con le quali è venuto in contatto, che in un certo senso contribuiscono al suo repertorio linguistico in contatto, non separate fra loro. Cioè, a livello del nostro cervello le lingue non stanno in contenitori stagni come alle volte si pensa, per cui io mi tolgo una giacca francese e mi metto una inglese o italiana o tedesca, no? Sì, anche quando io parlo quella lingua, le altre lingue che fanno parte del mio repertorio sono là, sono presenti e interagiscono in un certo senso, e quindi ogni apprendimento linguistico che facciamo, più o meno formale, a scuola, fuori della scuola, nella vita, che sia parziale o più avanzato, contribuisce a questo tessuto, a questo affresco linguistico che è il nostro plurilinguismo personale. Quindi costituisce, diciamo, una ricchezza, insomma, il cervello polilingue, che poi questa ricchezza si manifesta anche in situazioni che non richiedono solo la competenza linguistica. Per esempio, tantissimi studi che provano a determinare come le prestazioni nel linguaggio siano connesse alle prestazioni altrove mettono in evidenza, l'ultimissimo è sulla matematica, ed è stata considerata una sorpresa, che i bambini bilingui riscuotono risultati migliori comunque in aritmetica rispetto ai bambini monolingui. E ci sono poi anche studi simili sugli adulti, o sui, vengono chiamati tardo bilingui, cioè quelli che apprendono una lingua in un'età che non sia più quella dell'infanzia. Sono tutte le lingue importanti, preziose per le attivazioni cerebrali, sembrano dire queste ricerche che confermano in continuazione i propri studi e i propri risultati. Eppure noi abbiamo la tendenza, lo dico al professor Gilardino, a preferire sempre a stabilire una sorta di gerarchia delle lingue, per cui l'inglese è importante e le altre, sia in termini di politica linguistica, di investimenti per il mantenimento, di cura, come proprio si potrebbe curare anche una pianta rara, le altre vengono così lasciate in secondo ordine, in secondo piano. Professor Gilardino, è una cosa che lei ha osservato nei suoi studi? Sì, l'ho osservata naturalmente, condivido tra l'altro le opinioni espresse dalla professoressa Enrica Piccardo. Io sono stato per 35 anni a Montreal e i miei figli, i miei nipotini sono tutti trilingui, e lo sono perché vivevano in un ambiente in cui queste lingue erano parlate da genitori diversi, da familiari diversi, imparavano altre lingue, ma io sono particolarmente interessato alle lingue minoritarie. Per esempio, soltanto nel Quebec vi sono 14 nazioni amerindiane. Il governo del Quebec e il governo del Canada soprattutto hanno dedicato parecchi fondi e parecchia attenzione alla conservazione di queste lingue. Perché una lingua piccola, una lingua minoritaria, una lingua regionale, chiamiamola come vogliamo, è importante? Per la conservazione dell'identità. Noi pensiamo alle lingue straniere, all'acquisizione di lingue straniere, pensando appunto a lingue principali, lingue veicolari, l'inglese, il francese, il tedesco, il russo, il cinese, ma bisogna ricordarci anche che le lingue piccole possono convogliare messaggi e significati, idiotismi, che le lingue grandi di solito non convogliano. Io mi sono dedicato in questi ultimi anni a due lingue regionali, due lingue locali, il Tichu, che è la lingua germanica dei Walser, e ho compilato un grosso dizionario di questa lingua, e ora stiamo per terminare il dizionario del provenzale alpino, dell'occitano alpino. E quindi dove si parlano queste lingue? Il Walser è parlato in Svizzera, attorno al Monte Rosa, e in Italia sempre attorno al Monte Rosa. Sono popolazioni germaniche che sono arrivate lì più di 1000 anni fa e hanno conservato la più antica forma di lingua germanica parlata al mondo, con le declinazioni che risalgono ai tempi di Carlo Magno. E le parlano anche i giovani ancora? Anche purtroppo no, e questo è il fenomeno triste, cioè per questioni di cultura, questioni di prestigio linguistico, i genitori, i nonni fanno l'errore gravissimo di non insegnare più la lingua ancestrale ai figli. E lo stesso avviene per il provenzale alpino, che è una lingua ricchissima, abbiamo raccolto finora 120.000 parole per un totale di 50.000 lemmi e non abbiamo ancora finito. Queste lingue ricchissime però bisogna considerarle non solo dal punto di vista numerico ma dal punto di vista di specificità e idiomaticità. Contengono delle parole che insegnavano ai giovani quando ancora le imparavano a articolare la lingua con una precisione di nomenclatura che le lingue, diciamo, generali o veicolari non convengono più. Per esempio, ci faccia un esempio, se riesce, professor Gilardino, di un concetto espresso con questa accuratezza che lei ci sta riportando, certo, e che non sarebbe quasi traducibile in italiano se non usando locuzioni lunghe. Ma prendiamo per esempio in occitano la parola pagliolo. Pagliolo indicava il dovere della comunità di assistere una puerpera o una donna che aveva appena partorito per 3 settimane, fornendo tra le altre cose anche la paglia per il giaciglio, e poi questa parola è stata applicata più tardi anche a altri provvedimenti che la comunità aveva l'obbligo di fornire agli individui che erano in stato bisognoso. Per usare una parola simile in italiano o in francese bisognerebbe fare tutta una perifrasi. Come ha fatto lei adesso, infatti, per spiegarcela. Esattamente. E quindi si perdono dei significati. Quando si perde una lingua si perde una modalità di pensiero, non solo uno strumento commerciale o che può avere delle utilità nella vita come quella di trovare un lavoro. Ogni lingua è un anello nella catena della conoscenza umana. Ogni lingua che viene perduta è un grave scapito per tutta l'umanità. Ci sono ancora al momento discussioni su quante lingue sono attualmente parlate sul pianeta Terra, diciamo all'incirca 6.000, ma di queste 6.000 più di 200 all'anno spariscono per migrazione, per sopraffazione, per assimilazione, e quindi è un grave problema questo. Io cerco di documentare queste lingue prima che spariscano completamente. Ad esempio, dei 4 informatori linguistici che mi hanno fornito 40.000 parole memoria collettiva per il Walserdeutsch o il Tichu, 3 sono già spariti, non ci è rimasto uno solo non costituisce più lingua perché non può più dialogare con nessun altro. Ci chiede un'ascoltatrice da Treviso se anche il dialetto è considerato nel plurilinguismo, professoressa Piccardo. Mi fa molto piacere che ci sia questa domanda, perché il dialetto è una delle varianti di una lingua, quindi di fatto il nostro plurilinguismo non si limita, come diceva il professore, alle differenti lingue veicolari o comunque lingue internazionali o comunque lingue che percepiamo come tali, ma anche a tutte le varianti linguistiche e ai dialetti, alle varianti sociolinguistiche, cioè ai tipi di registri anche che usiamo nelle differenti situazioni. Quindi per aggiungere a quello che dicevate e che diceva il professore prima, io amo introdurre il concetto di biodiversità linguistica, no? Come abbiamo chiaro che la biodiversità è un valore nelle scienze, nella biologia, dovremmo arrivare al concetto che questa biodiversità linguistica va protetta. Anch'io sto facendo un lavoro sulla protezione o più che altro sulla valorizzazione delle lingue aborigene in Canada, ma non percepite come separate dalle altre, ma in interazione con le altre, cioè come una delle lingue che vanno valorizzate, una una tipologia di lingua che va valorizzata insieme alle altre. Stiamo lavorando ad uno strumento quasi di tipo portfolio che metterà insieme le conoscenze che i vari individui hanno nelle lingue, che possono essere inglese, francese, delle lingue che i canadesi chiamano heritage, cioè le lingue delle comunità che sono immigrate, e le lingue dei nativi. Per cui tutto va nello stesso percorso individuale. Anche se non è tutto ad avere la stessa attenzione. Diamo la parola anche a voi, perché abbiamo chiesto cosa nella vostra esperienza voi ascoltatori abbiate appurato funzioni per l'apprendimento di altre lingue, e non solo quando si è piccoli o neonati, anche da apprenditori tardi, come sono stati definiti. 800 24 00 24. Luisa, buongiorno, pronto? Pronto? Eccomi, mi sente? Sì, Luisa, buongiorno. dica. La mia esperienza è questa. Io ho parlato inglese ai miei figli appena nati, perché per tradizione, pur essendo italiana, da una trisnonna in poi abbiamo sempre parlato inglese ai bambini, come lingua unica, diciamo, italiano-inglese. Per cui l'imprinting è stato unico. Poi, certo, oltre all'affetto c'è poi la scelta dei figli. Mia figlia parla cinese, swahili, oltre inglese, francese, tedesco, eccetera, eccetera. Mio figlio ha praticato soltanto l'inglese, per cui poi diventa un tutt'uno che fa parte, diciamo... Chiaro, poi di scelte, di percorsi. Personale. Però giustamente segnala anche il cinese e il swahili come... ovviamente sui libri, diciamo così. Quindi un amore, un interesse e un talento, diciamolo pure. Mio figlio ha lo stesso imprinting, anche lui. Però ha coltivato solo l'inglese, quindi quello che per lei funziona è parlarlo in famiglia, anche se è una tradizione particolare, perché voi, come lei dice, siamo in realtà italiani, però parlarlo in famiglia ha aiutato i bambini ad apprenderlo fin da piccoli. Grazie a Luisa. Umberto Donati, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. E la sua è un'esperienza professionale che l'ha portato in giro per il mondo, segretario generale dell'Associazione Italia-Giappone ed ex direttore dell'Istituto Italiano a Tokyo. Ebbene, professor Donati, dalle sue osservazioni anche personali, visto che ovviamente come i nostri ospiti ha i figli che l'hanno seguito, hanno frequentato scuole in giro per il mondo e quindi l'ha visto anche in casa come si apprendono le lingue, cos'è che funziona? Beh, funziona prima di tutto, ad esempio, come nel mio caso, il matrimonio misto, ecco, perché se la madre mio giapponese, è certo che, sì, però ascolti, cioè non è che possiamo sposarci perché così abbiamo una lingua di più in casa. Voglio dire, siccome questo è un fenomeno, credo, abbastanza in espansione in Italia, questo è vero, ecco. E poi questo porta anche a qualche considerazione quale sarà poi delle due. Perché ad esempio nel caso di mia figlia, lei è perfettamente bilingue, però con una leggera prevalenza, visto che adesso abita in Italia, nei confronti dell'italiano, e poi apertura su tante altre lingue. Devo dire, molti paesi hanno interesse, ad esempio, della lingua italiana, perché non so, forse l'avete già detto in altre occasioni, la lingua italiana, al di là di quello che si crede, credo che sia la quinta o la sesta più parlata nel mondo, dovuto soprattutto al fatto che l'italiano è legato all'arte, alla cultura, alla storia, eccetera. Ecco, addirittura questo... da alcune fonti ci risultava fosse la quarta lingua più richiesta. Sì, dipende dalle cose. Insomma, dopo le grandi lingue, lo spagnolo, il cinese, eccetera. Insomma, e l'inglese, l'italiano fosse la quarta lingua più richiesta nel senso di corsi, insegnamenti. Sì. E lei che è stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura l'avrà anche appurato in giro per il mondo. Sì. Però noi non investiamo, dal punto di vista della politica linguistica tendiamo a tagliare, noi inteso come paese, piuttosto che a capire il potenziale. Sì, ad esempio c'è un tema che è abbastanza strano per il nostro paese, no? Che è diventato un paese di facile immigrazione. Creiamo una serie di difficoltà per chi dall'estero vuol venire a studiare l'italiano dopo, per un periodo sufficientemente lungo, oppure alternando lo studio al lavoro. Ecco, questo è un tema. Che difficoltà creiamo? Scusi, può essere più preciso? Per i visti di soggiorno, ecco, è una cosa abbastanza complicata per avere i visti di soggiorno. Non solo, ma io parlo di paesi non paesi migratori, no? Cioè in cui la gente arriva per stabilizzarsi. Ma io parlo di paesi che hanno interesse alla nostra lingua, alla nostra cultura e che vorrebbero venire in Italia per un periodo sufficientemente lungo, magari accompagnando allo studio il lavoro, e lì il problema diventa complesso, molto complesso, per ottenere un visto di soggiorno. Quali paesi, per esempio? Beh, ad esempio, faccio il caso principale del Giappone, che ha un flusso notevolissimo di giapponesi che amano l'italiano, che vogliono venire in Italia per studiarlo, collegato ad esempio al fatto della musica lirica piuttosto che dell'arte, o comunque in genere per il turismo. Ci sono quasi 1 milione di giapponesi che ogni anno vengono in Italia per turismo. Ecco, comunque con questi, dopo, al di là dei 3 mesi che non c'è necessità di visti, se uno rimane più tempo più lungo deve fare una pratica che non sempre è semplice, comunque abbastanza è lunga. Ecco, e questo sarebbe abbastanza utile abolirlo. Io adesso, quando il primo ministro italiano è andato in Giappone, gli ho suggerito ai suoi uffici che questa poteva essere una piccola cosa da inserire nelle agende importanti. È chiaro, perché è un disincentivo a rimanere e a imparare questa lingua che tantissimi vorrebbero parlare. Lei ha citato l'opera lirica, ci sono ragioni anche legate alla letteratura, all'arte. Sì. E poi piace il suono, dicono alle orecchie straniere, sì, suona come cantato, suono, piace, sì, piace. Ad esempio cinesi o coreani o giapponesi che vengono in Italia per studiare la lirica, sono tantissimi, e poi si vede anche quando ci sono i cartelloni delle opere liriche in Italia, spesso e volentieri ci sono dei cantanti che sono coreani, molti stabilizzati, ma insomma comunque ne vengono tanti che a studiare dovremmo cercare di favorirli invece che creare ulteriori grane, problemi e difficoltà. Collega un po' quello che dicevate prima. Rimanga con noi perché completiamo questo discorso subito dopo, dottor Donati. Noi diamo la parola alla regia e poi torniamo insieme per capire cosa funziona. Lei ha detto il matrimonio, poi abbiamo scherzato, il matrimonio misto, invece tanti ascoltatori ce lo segnalano. Attenzione, il fidanzamento con una persona di un'altra lingua è la cosa più efficace. Spunti di vista. I 1000 aspetti dell'attualità. Minuti dopo le 9 e c'è chi ci dice: ho frequentato un corso di giapponese. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, stiamo parlando del nostro cervello di fronte all'apprendimento delle lingue, come funziona? Non funziona a compartimenti stagni, ce lo confermano anche gli ascoltatori, perché c'è chi ci scrive: io parlo 6 lingue, a volte faccio confusione tra le lingue che conosco, è proprio vero che si toccano in qualche modo anche dentro la testa, non sono isolate uno dall'altra. E ci sono problemi molto importanti che arrivano anche attraverso i vostri messaggi, delle persone che non insegnano ai figli la loro lingua e anche insegnanti che non considerano il bilinguismo dei bambini e li segnalano come dislessici o disgrafici. E ritorniamo al problema della gerarchia tra le lingue che abbiamo un po' inserito: l'inglese prima di tutto e tutto il resto vale meno, tema che approfondiremo. Vorrei sentire però da Umberto Donati, col quale stavamo conversando, a questa esperienza importantissima in Asia, oltre ad avere una famiglia bilingue completamente, ci stava parlando dell'apprezzamento degli stranieri, degli asiatici in particolare dal suo punto di vista, verso la lingua italiana, apprezzamento che però noi non incentiviamo, non agevoliamo. Dunque, Umberto Donati, in termini di politica linguistica, cosa andrebbe fatto e perché noi italiani, secondo lei, non capiamo il potenziale, le istituzioni italiane quantomeno, dell'avere persone che imparano la nostra lingua all'estero, nel mondo? Abbiamo tagliato gli istituti Dante Alighieri, è sempre più difficile trovare un corso di italiano. Invece che ricchezza porterebbe al paese? La porta già, come dicevo, perché prima di tutto ci sono molte istituzioni, al di là di quello che si sa, gli istituti di cultura svolgono in questo campo una funzione importante, anche perché il fare corsi di lingua italiana all'estero comporta anche un'attività economica vantaggiosa per chi la fa. Ecco, è in tema in un momento di carenze forti di risorse pubbliche, è chiaro che tutto il sistema degli istituti di cultura, delle Dante Alighieri a giro per il mondo, si sono un po' orientate in maggior modo verso l'insegnamento della lingua. Ecco, è chiaro che quando uno ha appreso anche un rudimento della lingua italiana, ha la tentazione di venire a vedere l'Italia, di tornare in Italia per approfondirlo, comunque soltanto come turista. Ad esempio, i giapponesi collegano molto l'apprendimento anche iniziale, basilare, di qualche parola italiana con un viaggio turistico in Italia. Ecco, questo è un fatto estremamente importante. Grazie, grazie a Umberto Donati, che ha questa esperienza da ex direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, per essere stato con noi. 800 24 00 24. Brunella, pronto? Benvenuta. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto, Brunella. Desideravo solo brevemente raccontare il fatto che io sono cresciuta fin da piccina bilingue italiano-tedesco, perché mia madre era austriaca, mio padre italiano. Sono nata e vissuta a Roma e diciamo che nel corso degli anni, adesso ne ho 55, quello che io ho notato, oltre ad alcune fasi di leggera confusione identitaria, perché non mi sentivo né carne né pesce e venivo considerata dai miei amici e parenti italiani un po' più crucca, teutonica, e dai miei amici e parenti tedeschi ed austriaci un po' più italiana, un po' più terrona. Oltre a queste fasi... In senso buono, no? Lei dice calda, passionale. Sì, tutte le caratteristiche del nordico, le caratteristiche del mediterraneo, certo, che sono evidentemente comunque presenti in me. La cosa che ho notato col passare degli anni, col passare del tempo, è che appunto c'erano diverse fasi di propensione più per l'una e più per l'altra identità. Nel corso del tempo queste cose si sono poi stabilizzate, e pur trovandomi io a casa mia, sia in Germania che in Austria, quando ci vado, definitivamente ho capito che mi sento comunque e sempre più italiana. Ma è così importante scegliere? È così importante? No, ma non è una scelta, è una cosa che avviene dentro di sé. Nel mio caso è avvenuta dentro di me. È chiaro. Grazie, grazie a Brunella, perché ci ha confermato anche, mi scuso ma dobbiamo lasciar parlare tutti, e quello che tanti ci hanno segnalato: crescere in una famiglia dove i genitori sono portatori di due lingue diverse è la cosa che più aiuta nell'apprendimento. Ma lei, parlando di lingua, ha parlato di identità. Richiamo in gioco il professor Gilardino, era l'osservazione che faceva lei: la lingua è identità, vanno veramente a braccetto questi concetti. La lingua è identità profonda, però bisogna ricordarsi, da quanto è stato anche menzionato dai vari ascoltatori, che i cosiddetti dialetti sono tanto importanti. Purtroppo molti genitori pensano che il dialetto inquini poi l'apprendimento successivo dell'italiano, o che riduca il rango sociale della persona che lo parla. In realtà per i bambini lo stimolo iniziale tra 0 e 2 anni dell'apprendimento di un dialetto è molto importante, perché si sa che dopo impareranno l'italiano e le altre lingue molto meglio se prima parlano una lingua ancestrale in casa. Senta, questo... professor Gilardino, posso svelare un elemento della sua biografia? Perché il professor Gilardino, che è un noto linguista internazionale, avete sentito che tipo di curriculum, e ha la laurea in lingue e letteratura germanica alla Bocconi, il dottorato in lingue, letteratura e romanze ad Harvard, in Italia veniva bocciato alle elementari perché parlava dialetto ed era incapace di imparare la lingua nazionale. Così, professore? Beh, ho avuto una certa difficoltà all'inizio perché non capivo l'italiano, e poi in seguito invece questa abitudine a imparare un'altra lingua in fretta per risolvere dei problemi pratici è quello che poi mi ha aiutato a imparare molte altre lingue nazionali e internazionali. Bisogna capire quindi che il meccanismo, e prima la professoressa lo menzionava, di apprendimento linguistico in età molto tenera è stimolato moltissimo anche dall'apprendimento di lingue che apparentemente non sono... Non hanno nulla, esatto, non hanno nulla a che vedere. Grazie. E noi torniamo un attimo con gli ascoltatori, perché c'è Germana. Pronto? Buongiorno, Germana. Sì, buongiorno. Dica, cosa funziona nell'apprendimento delle lingue secondo lei? Allora, per quello che mi dice la mia esperienza di vita, la cosa che veramente è più produttiva nell'imparare una lingua è la motivazione a usare questa lingua. perché lo studio così teorico, per esempio come viene fatto in Italia, quasi esclusivamente grammaticale, dove i compiti in class sono dei virtuosismi di grammatica, non dico di stile, portano a dimenticare qual è lo scopo della lingua. La lingua è uno strumento di comunicazione, quindi quando ci si fa capire va benissimo, e la molla principale è quella di farsi capire e capire l'interlocutore che abbiamo di fronte, o comunque anche le canzoni, qualunque mezzo nella lingua straniera è utile, ma è fondamentale avere una motivazione personale. Lei cosa fa nella vita, Germana? Io sono pensionata. Cosa faceva, diciamo, allora? Ho insegnato l'inglese. Ha insegnato proprio l'apprendimento linguistico e ha visto delle persone che magari, dei ragazzi, le ragazze faticavano sulla grammatica, sul libro, e poi una volta motivati invece poi lo parlavano meglio degli altri, questo inglese? Sì, sì, meglio degli altri. Diciamo che se mancano le strutture mentali per arrivare a capire un pochino i meccanismi elementari della lingua, allora diventa veramente un'impresa difficile. Però ripeto, per farsi capire non è necessario fare la letteratura, bastano intanto un buon glossario, una buona ricchezza di vocabolario, cosa che è sempre sempre in ombra. Perché in Italia si privilegia sempre l'insegnamento della lingua scritta, cioè la grammatica, che a volte non solo non aiuta a essere fluente, ma blocca, perché stai a pensare, ma ho messo il participio passato giusto dell'ausiliario, dovrei... Sì, e questo ormai è stato segnalato, e non solo in Italia c'è questo problema. Grazie Germana, particolarmente prezioso questo intervento, perché ci sono dei corsi ormai in giro nel web, ne potete trovare parecchi, destinati proprio a chi ha preso la lingua, in questo caso l'inglese, ma vale per tutti, sui libri, e quindi non riesce a parlarla e si chiede come mai io l'ho studiata per anni e poi in realtà quando mi trovo a doverla parlare non mi vengono le parole, non riesco a esprimermi. E tra i suggerimenti proposti da questi corsi c'è proprio quello di dimenticarsi come una parola è scritta, o di quell'insegnamento di grammatica che abbiamo appreso in aula, perché quello ci bloccherà. Tora Arnosdottir, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Buongiorno. E lei, Tora, di che nazionalità è e quante lingue parla? Io sono islandese, vengo dall'Islanda e parlo, diciamo, 5 lingue. Devo dire che l'italiano lo parla molto bene. Seguendo questa trasmissione, cosa le è venuto in mente, visto che lei è abituata ad ambienti multilingui? Ma io sono d'accordo con tante cose. Uno, per me l'islandese è la lingua più importante. L'islandese è la base dell'identità e dell'indipendenza della mia nazione. E senza la lingua non saremmo una nazione. E lei comunque ha bambini, Tora? Ha figli a cui trasmette? Sì, ho 3 bambini e per me è una cosa molto molto importante che imparano bene l'islandese. Comunque siamo una nazione molto piccola, un'isola grande, cioè grande come un terzo dell'Italia, con 330.000 persone. Chiaro. Vuol dire che se vogliamo comunicare con il mondo dobbiamo imparare altre lingue e tradurre anche. E vuol dire che per noi sarebbe molto più economico parlare l'inglese, così non dobbiamo tradurre tutto, ma si perde tutto. Quindi conservare l'islandese è importante, lei lo parla ai suoi figli? Assolutamente, sì, parlo solo l'islandese, ma voglio, ovviamente è molto importante che loro poi imparano l'inglese, altre lingue, e a scuola sì, il danese, l'inglese, poi o il tedesco, francese o lo spagnolo imparano, ma la base è sempre la madrelingua. Ed è importante per l'identità, e mentre molti ci segnalano che l'errore più diffuso, almeno in Italia, è che anche chi si trasferisce in Italia poi non coltiva, perché gli insegnanti lo scoraggiano, non coltiva la lingua originaria, del paese originario, perché viene considerato una sorta di pesante fardello inutile, tanto non è una lingua veicolare, tanto non è l'inglese. E lei ci sta portando, Tora, la testimonianza opposta. Dove vive lei e la sua famiglia con i tre bambini? A Reykjavik, la capitale di Islanda. E io viaggiando, viaggiamo tanto e c'è gente che mi chiede, ma come mai? Cioè, uno, non sanno che abbiamo una lingua nostra e pensano che parliamo l'inglese qui in Islanda. Poi quando lo correggo dico, no, guardi, cioè, noi abbiamo la nostra lingua, chiedono, ma come mai i suoi bambini non parlano l'inglese? Ma e perché siamo islandesi? Poi sì, certo. Certo, lo impareranno e lo coltiveranno, però prima di tutto la lingua madre. Da un paese microscopico, come ci ha segnalato lei, come l'Islanda. È importante l'identità. Grazie, grazie anche per questa segnalazione. Controlliamo come sta andando il traffico e poi torniamo insieme per le conclusioni. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E vi segnalo anche la pagina Facebook per continuare la conversazione, la pagina Facebook di Spunti di Vista, perché sono tantissimi quelli che vorrebbero dire, partecipare, fare su questo tema che tocca tante famiglie, soprattutto da vicino. Per esempio ci scrive Mauro, un bimbo di 22 mesi, mi chiedevo se fosse utile ciò che stiamo facendo con lui, cioè fargli guardare in televisione i classici cartoni animati per bimbi, ma in lingua inglese. Questo lo può agevolare, gli darà un bagaglio di una lingua straniera? Ed è una domanda che chiederemo tra pochissimo, gireremo tra pochissimo alla nostra esperta di plurilinguismo Enrica Piccardo. E poi c'è chi ci segnala la scuola germanica. Claudia ci scrive, dice, dai 3 anni nella scuola le lingue si imparano giocando e cantando, perché la scuola germanica si inizia così e si esce con l'italiano, il tedesco, l'inglese e il francese e, se si vuole, il latino. C'è una domanda poi anche per il nostro Sergio Gilardino, che dice, potrei avere qualche informazione sulla lingua cimbra delle vallate veronesi, e questa la pone Attilio. Gianfranco chiede, a proposito di minoranze linguistiche in Italia, abbiamo l'articolo 6 della Costituzione che le tutela e le promuove, ma in pratica oggi cosa si fa per questo? Tutte grandi interrogativi, perché la questione della tutela della minoranza linguistica naturalmente intriga e appassiona. Vediamo se riusciamo, velocissimi, Ettore, a dire e a parlare, a suggerire uno strumento per l'apprendimento delle lingue che ancora non abbiamo fatto sentire, forse il più importante. Ettore, qual è? Buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo riprendere l'affermazione della signora Germana sul fatto che fossero necessarie delle motivazioni. Assolutamente d'accordo. Nel mio caso è stato utile anche possedere una buona memoria e quello che viene definito l'orecchio musicale. Cioè l'orecchio musicale. Esatto, trasformare le parole in suoni e saperle riprodurre. Ottimo, grazie Ettore, dico ottimo perché questo è uno dei metodi di insegnamento che va per la maggiore ormai e si rivela anche il più efficace, cioè non l'insegnamento tramite la scomposizione così grammaticale, ma ascoltando i suoni, senza sapere nemmeno come questi vengono scritti. E c'è però questa prevalenza dell'interesse per l'inglese. Chiediamo alla dottoressa Piccardo di rispondere a Mauro, che ci diceva, è giusto, faccio bene a far ascoltare, a far vedere al bambino di 22 mesi cartoni animati in lingua? Sì, tutto, ogni esposizione ad un'altra lingua è positiva, quindi sicuramente è giusto. Quello che non è giusto è pensare a una motivazione funzionale, se lo espongo subito all'inglese imparerà più facilmente l'inglese, troverà un miglior lavoro quando sarà grande, cioè questo tipo di motivazione è una motivazione di tipo estrinseco che da poco fino a quando non si arriva veramente all'età in cui ci si pone il problema del lavoro. È un'esposizione al suono della lingua, come diceva l'ascoltatore che ha parlato adesso, che è molto importante. Perché impararla allora fin da piccoli, se, come lei sottolinea, non deve essere un utilizzo, cioè un approccio solo utilitaristico? In cosa consiste la ricchezza del conoscere tante lingue? Perché la lingua, lo dicevi Irene prima, è provato adesso che dà una maggior capacità di pensiero astratto, divergente e creativo. Avere conoscenza di più lingue favorisce, la ricerca lo dice, maggior capacità di pensiero astratto, divergente e creativo, al di là delle gerarchie linguistiche. Quindi il discorso non è tanto quello funzionale, certo poi si aggiungerà questa motivazione, ma è un discorso di apertura alle altre lingue, di sapere che una cosa può essere detta in diversi modi, che aiutano il pensiero ad essere flessibile, perché non si fa più questa identificazione tra un oggetto e il nome, il termine che lo indica. Grazie. Si arriva ad avere questa capacità. E infatti anche quello che diceva un'ascoltatrice, io faccio qualche errore, ma vado avanti. Questa è la cosa più importante. Grazie, dottoressa Piccardo. Dobbiamo concludere perché vogliamo sentire anche dal professor Gilardino, che è stato chiamato in causa dagli ascoltatori direttamente, cosa stiamo facendo in pratica per la tutela delle minoranze linguistiche, e se ci può salutare raccontandoci un altro, spiegandoci un altro di questi vocaboli così ricchi e che rischiamo di perdere. Le leggi valgono quel che valgono, quello che importava e che purtroppo non è stato curato è l'atteggiamento dei genitori nei confronti delle loro lingue. L'Italia aveva la più grande messe di lingue ancestrali al momento dell'unificazione. Per ragioni diverse si sono scoraggiati i genitori dal parlare queste lingue in casa e le abbiamo perse. Abbiamo perso quindi uno dei tesori più preziosi della nostra cultura. Bisogna capire che quando un bambino impara bene la lingua e la cultura di un altro popolo, è difficile che, diventando adulto, poi la disprezzi. Ci sono quindi delle leggi, l'articolo 6 della Costituzione, la legge 482, ma non bastano le leggi, bisognava inculcare nei genitori il rispetto per le loro lingue ancestrali e che le insegnassero ai bambini. E il rispetto delle identità. Ci saluti con un vocabolo, ci spieghi in 5 secondi, 10, cosa significa, professor Gilardino, uno di quelli che abbiamo perso. Per esempio, Welsh, i tedeschi, i popoli Walser di lingua tedesca usano la parola Welsh per italiano. Welsh vuol dire la stessa cosa che celtico, e quindi indica il fatto che questi popoli erano a contatto prima con un popolo celtico e poi hanno adottato questo stesso nome Welsh per chiunque non è della loro razza, della loro stirpe. Grazie a Sergio Gilardino. Noi ora stiamo per salutarci, ma vogliamo andare da Siracusa all'Expo a forza di braccio, e lo facciamo con Samuel e la sua handbike. È partito il 15 luglio dalla Sicilia, è un esempio di coraggio, lo stiamo seguendo anche in questa trasmissione. Samuel Marchese, 15 anni, l'abbiamo intervistato e l'abbiamo sentito per proporvelo ora. Samuel, ciao. Ciao, ancora qualche giorno e il traguardo sarà raggiunto. Eh sì, ancora una settimana all'incirca poi siamo all'Expo finalmente. Sei stanco, Samuel? No, un po' affaticato per il caldo durante le tappe, però è normale. L'adrenalina comunque c'è, quindi non si sente tanto il caldo mentre pedaliamo. Poi certo si sente dopo, però vabbè. E poi Samuel, in questo tuo percorso c'è stata una tappa importantissima, quella che ti ha portato a Dynamo Camp. Che cos'è questo Dynamo Camp? Allora, noi siamo già a Dynamo Camp da domenica ed è un posto particolare dove in una settimana ti fanno vivere esperienze fantastiche ci fanno andare anche a cavallo perché hanno una fattoria, poi hanno pure un luogo dove ti fanno fare scalate su una parete e anche percorsi tra gli alberi e anche delle scalate su percorsi su con delle pietre e poi hanno delle aree svago con piscina e una radio dove ti fanno andare in onda direttamente da loro. E allora siamo colleghi? Eh sì, hanno una stazione radio, quindi siete anche colleghi, sì. Bellissimo, ecco, immaginate come un'organizzazione come questa poi sia fondamentale anche per una famiglia. E ti ha rimesso in moto questa organizzazione e da allora non ti sei fermato più, hai affrontato anche questa incredibile impresa. Immaginate 800 chilometri, tante persone che ti seguono con ammirazione, e voglio sentire ancora una volta, perché è troppo bello, il messaggio che mandi con questa attraversata d'Italia che stai facendo. Sì, allora vogliamo mandare il messaggio che la disabilità non esiste, proprio perché noi anche se con più difficoltà arriviamo comunque nonostante tutto a raggiungere i nostri obiettivi con la nostra forza di volontà e determinazione. Poi vogliamo anche dimostrare che la vera forza non sta nella forza fisica e nel fisico perfetto, ma sta nella forza di volontà e nella caparbietà. E vogliamo anche mandare un messaggio ai coloro i quali hanno puramente la perfezione nel fisico, ma poi non hanno né la volontà né la forza di affrontare la vita, e vogliamo chiedere a loro: se ce la facciamo noi a farlo, qual è la tua scusa per non farlo? Quanti anni hai, Samuel? 16. Sei un grande. Ciao. Ciao.